24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Ieri alla Camera, non è che ci siamo trasformati. Allora, alla Camera ieri si sentiva, no? Bella ciao, è un casino inenarrabile, sentite. Erano quelli di Sel questi, no? Poi c'era il Movimento 5 Stelle, un disastro, un casino. Tanto so che Vincino avrà seguito tutto, sa tutto della Camera. Vincino, così. Tu hai seguito tutto ogni secondo. Assolutamente tutto. Ecco, figurarsi. Secondo per secondo proprio, sì. Minuto per minuto. Un casino. Una giornata stupenda. Stupenda, sì. Sono volati schiaffi, spintoni. Ma... l'onorevole D'Ambruoso di Scelta Civica gli hanno detto lei ha schiaffeggiato una bello deputata. Proprio. Ha detto no, no, io colpito. Viene dalla scuola magistrati. E quindi ha detto colpito non è il termine giusto, ho toccato vari deputati, dovevo difendere la Boldrini. Mamma mia che è successo. Voglio salutare insieme a Vincino Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Eccoci Maurizio. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Dai, hai sentito anche tu un brivido su queste note che risuonavano alla Camera, vero? Bella ciao, beh, hanno cantato anche Fratelli d'Italia, agitato tricolori, innalzato cartelli. Sì. Posso dare una battuta io prima che la dica il Vincino? Sì. Posso? Sì. Posso? Allora, quando uno evoca il boia è evidente che arriva la ghigliottina. Effettivamente ghigliottina in Parlamento ieri, che all'inizio non suonava malissimo, messa così, no Vincino? Non era una cosa che... poi dopo effettivamente mi sono ripreso anch'io. Va bene, questo è 24 mattino, vogliamo aprire il Parlamento? Sì. Saluto Miriam Lucchetti in redazione. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il nostro Carmelo Lauricella in regia. E che è successo allora in Parlamento, Vincino? Assunto di un cronista parlamentare. Che è successo? È successo che, come dite, dopo tanti giorni di questi qua, ogni secondo, questi ragazzini di grillini, ecco, a dire cose inutili, no? sempre le stesse, a un certo punto 150, 200, 300 interventi, poi quella, la poveretta, non ne poteva più. La poveretta sarebbe la Boldrini. Anche lei, la Boldrini, come dire, cioè non è che... può stare tutto il giorno là, e c'è uno che ha detto basta, no, e via, si vota e via, no. E no. Poi quando si vota ci sono i numeri, e ecco, la democrazia è ecco fatta là anche dei numeri. Vabbè, allora poi, no, cosa è successo? Doveva essere approvato il decreto IMU Banca Italia entro ieri. Erano due cose insieme che non c'entravano niente una con l'altra, ecco, questo è il primo errore, ma questo è un altro disastro di Letta, che... Letta ieri è andato tutto, non c'è una cosa, c'è 40 notizie, tutte peggio tutte una male dell'altra. Per no, però spieghiamo, allora, siccome questo decreto IMU Banca Italia metteva insieme queste cose, o veniva convertito entro ieri a mezzanotte o decadeva, era cassa, carta straccia, e dovevamo tutti pagare l'IMU, peraltro, sì. E allora il Movimento 5 Stelle, siccome voleva scorporare le due vicende, ha iniziato a fare un Tortorella, no, filibusterings. Si chiama, no? Maurizio? L'ostruzionismo parlamentare. L'ostruzionismo, cioè, sì. Sì, la lettura di tutti, prima con una serie di emendamenti che sono stati appunto l'uno dopo l'altro cassati, negati dal governo e dalla maggioranza. e poi con interventi sull'ordine del giorno. Sì, ma interventi io li ho letti e li ho sentiti, erano straordinari, tipo: Presidente, devo prendere la parola. Uno era questo: mi avete accusato di aver fatto la pubblicità alla pizzeria a Umma Umma, mi hanno chiamato dalla pizzeria, caro Vincino, ma io mi riferivo alla Umma Umma napoletano, cioè quel modo di fare a Umma Umma, e così, e prendevano la parola. Oppure: voglio rettificare il verbale di ieri, ho detto che Renzi è come il cagnolino Dudù e mi hanno accusato di andare contro gli animali, ma io non ce l'ho con gli animali, e via, e prendevano quello, la Boldrini diceva: questo non c'è nell'ordine del giorno. E certo, senta, stia dentro l'ordine del giorno, questo non c'è. E quelli naturalmente dicevano tutte altre cose. È chiaro, però devo dirti, è una cosa, sì. Secondo me sulla Banca d'Italia sbagliavano loro. Loro, i grillini, perché? Eccola là. Sì, tu contro i grillini, Tortorella contro i grillini. Ma adesso io che devo fare? Io mi ricordo che anni fa andai a un'assemblea della Banca d'Italia, i politici non entravano, i ministri non entravano. Le assemblee, le cose, facevano proprio, si difendevano dalla politica, no? Ora, se Saccomanni e gli altri della Banca d'Italia fanno una cosa che gli va bene, allora Banca d'Italia, come dire, ma perché i politici devono rimetterci le mani? Abbiamo l'unica cosa in Italia indipendente dalla politica, la Banca d'Italia, e lasciamola stare. Lasciamola stare. Vabbè, allora arrivano i messaggi. Vabbè. L'unica vera opposizione, siamo milioni, rassegnatevi, caro Maurizio, caro Vincino, anch'io. Poi prima o poi diranno: uscite con le mani, con le sì, mani alzate. Poi anche c'è fascisti. Certo. Ma è sempre lo stesso. Merda, me lo prendo io. Le norme sono le norme sì, valgono per tutti, le norme vanno rispettate. Se il regolamento della Camera prevede che in certi casi valutati tutti gli emendamenti eccetera, in presenza soltanto di richieste di ordini del giorno, il Presidente della Camera possa interrompere il flusso degli ordini del giorno, sì, e passare direttamente alla votazione, norma voluta da Luciano Violante, sì, tra l'altro, sì, sì, quando il Parlamento era presieduto da Luciano Violante. Si usa la ghigliottina. Ed è successo questo, la Boldrini che apre le votazioni. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 1942 di conversione del decreto legge in esame. Dichiaro aperta la votazione. E lì Vincino, no? è partito il delirio. Insomma. Chiusa la votazione, via, proprio manco. Sì, sì, sì, niente. Ma sono volati schiaffoni. Effettivamente ci sono le immagini. L'onorevole D'Ambrosio, che è un questore, quindi dice al Corriere: ho il dovere di difendere la terza carica dello Stato. Cioè, si è messo lì proprio come a menare, un po' offendenti, perché spintonava un po'. È innamorato, secondo me. No. Sì, è innamorato. Questo proprio, no, è lui proprio. Non sopporta che gli venga criticata soltanto. Ha detto, tra l'altro, sono volate, Maurizio Tortorella, accuse pesantissime. L'onorevole Giulia Sarti ha detto che D'Ambrosio non ho colpito, ho toccato l'onorevole Lupo del Movimento 5 Stelle, avrebbe pronunciato la seguente frase: non sei la prima donna che picchio nella vita. Al che D'Ambrosio ha detto: la querelo immediatamente. Cioè, ma sono partito. Io conosco D'Ambrosio da quando appunto faceva cronaca giudiziaria, è un uomo mite. La scena non è bella, obiettivamente, e lo scontro fisico c'è stato, il contrasto c'è stato. Escluderei la frase, ma non c'ero. Ma no, ma figurarsi se uno si mette a dire pubblicamente, a parte che anch'io lo conosco, sono sicuro che non abbia mai sfiorato una donna, ma figurarsi poi se dice così pubblicamente. Lo faceva con i terroristi islamici questo. Con qualche problema per lui. Esatto. No, tra l'altro ho ricevuto già una valanga di insulti, perché dopo un'accusa del genere, cioè io avrei detto: non sei la prima donna che picchio in vita mia, ma ci mancherebbe. E comunque, insomma, mandiamo la moviola, Vincino, vediamo se era rigore. Sì. Manda la moviola. Ma chi manda la moviola? Amicino, siamo in radio. Sì, ma siamo in radio. Vabbè, ma noi la moviola, in radio possiamo fare tutto. No? A me una volta un carabiniere mi picchiò, mi detto un pugno sulla cosa. Io avevo 30 giorni alla mascella, lui 3 giorni alla mano, mi hanno condannato a me 1 anno e mezzo. Ma no, ma quando è successo? Ma quando è successo? Nel 1972 a Gela, dove facevo il militante rivoluzionario esterno di lotta continua al petrolchimico. Hai capito, Maurizio? Che vita, mica. Un mese e mezzo di galera per quel pugno che mi ha dato quel carabiniere. Come te, ma te la sei fatta la galera? Sì, è certo. Io tutto ho fatto nella vita. Pure la galera, quel pugno che mi ha dato il carabiniere. Ma tu gli hai slogato la mano, però, con quella mascella. Ma sì, io ho slogato la mano. Quello, vabbè, lasciamo perdere, è una cosa vecchia. Ma dove l'hai fatto il carcere? A Gela, a Caltanissetta, a Malaspina e Caltanissetta. Stupendo, guarda, non mi sono mai divertito tanto, ti giuro. Ma come? Un mese e mezzo di galera? È la misura esatta per capirla e per non diventare insopportabile. No? E farla. Allora, c'è chi... consiglio a tutti, anche a te. grazie. Maurizio, tu sei mai almeno stato... Almeno l'ha consigliata, per fortuna. No, ma sei mai stato in carcere, Maurizio? Tu? Ci sono stato a visitare. No, non vale così. Ho visitato più di una e ho intervistato persone in carcere. È un'esperienza che suggerirei a qualunque magistrato, a qualunque giornalista, forse andrebbe fatta fare nelle scuole medie superiori. Su questo sono d'accordo. I magistrati l'avranno visitata, la visita. No, i magistrati, mi spiace, ci sono magistrati che non sanno neanche che cos'è il carcere. E magistrati penali, intendo. Certo. Ed è un bel errore. Se Tortorella la sua stoccatina ai magistrati non la dà quotidiana, non è contento. Guarda, ripeto, rispetto totale dei confronti della magistratura. È un'esperienza che suggerirei un po' a tutti. Vabbè, allora mi suggeriscono di aprire anche, caro Vincino, il Bartigiano da oggi. Bartigiano, dopo il Barlavento. Non è male, un ascoltatore. Sentite Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Non è soltanto magari una frase che può essere sicuramente discutibile, ma anche il fatto che la Costituzione qui dentro viene stuprata tutti i giorni. Oh, mamma mia. Vabbè, che te... Esagerata. Vabbè. Senti allora Casaleggio, ti faccio il giorno del Movimento 5 Stelle. Casaleggio ha la voce, è incredibile, perché pare che sia un mimo. C'era la regia sua ieri, è vero. Parla Casaleggio. Per quanto riguarda l'impeachment, probabilmente sarà proposto nei prossimi giorni. Ah, quindi il passaggio formale proprio? In modo che sia un attimo elezione. Vabbè, nei prossimi giorni c'è l'impeachment, Vincino. Cioè l'impeachment. Però c'era la regia sua ieri, c'era Casaleggio dalla tribuna che faceva là, come Napoleone alla battaglia, ma mandava i battaglioni di Grillini avanti. Attaccare da destra, sì, esatto, attaccare esatto, da destra che sono deboli, a cerchiare. Era così, Maurizio, te lo vedo. Assolutamente, questa la devo disegnare, come Napoleone, là. Oddio, vabbè. Un po' diverso. vabbè. Allora... E invece c'è il grande accordo a 37, quota 37. Infatti, ne parliamo dopo il traffico, è l'accordo a 37, lo ricordo sempre, come ha detto il deputato Davide Armini, e la temperatura a cui ti viene la febbre, è quella lì, 37. 24 mattino. Mastra Pasqua, Mastra Pasqua. Con 24 incarichi e guadagni milionari, possa finire davanti al supermercato a fare il questuante taglieggiatore di piccole pensioni. Electrolux vuole che i nostri operai prendano una paga come quella degli operai polacchi. Allora, io voglio fare una proposta all'Electrolux. Perché i propri elettrodomestici che vende in Italia non li mette allo stesso prezzo di quelli che li vende in Polonia? Così almeno siamo alla pari, no? Abbassano i prezzi loro, abbassano gli stipendi noi. Il signor Chiodi può dormire con chi vuole. A noi non interessa proprio, a noi quello che interessa è che il signor Chiodi dorme in un albergo a 5 stelle pagando il sovrapprezzo per una matrimoniale a nostre spese. Questo non ci va bene, per il resto non preoccupatevi, il signor Chiodi può pure dormire con chi vuole, a noi non ci importa nulla. Dico, se un politico che conta, avrebbe un pelo dei capelli della Merkel, l'Italia fosse a posto. quella sì che si chiama politica genuina. Mi ricordo mutande verdi e i rimborsi con i porcini, tutti sordi per il candore e i listoni con i caffoni, e la patria tutta rossa svergognata nei bungarubba. Grazie. Beh, insomma, un'esibizione canora. Così è Vincino. Com'è quello? Se lui avrebbe un pelo d'essa, fosse molto meglio. Beh, è un genio. Ma i primi erano bellissimi. L'ultimo era vecchio, noioso. Insomma, quello in mutande verdi. Però i primi erano stupendi. Stupendi. Assolutamente. Ma io non esco. Vincino in carcere, una cosa proprio mi è rimasto. Non lo dica a nessuno, però per favore. No, Maurizio. Maurizio. Ho due figlie da sposare. No, infatti, Maurizio, lasciamo. Non dirlo a nessuno. Tanto siamo qua che ci parliamo a tre in una conferenza. Non dirlo, Maurizio. Non è che senti qualche amico oggi che Vincino è stato un mese e mezzo in carcere. Dove? Caltanissetta. Fantastico. Allora, 37% a 37 viene la febbre, a 37 si vince il premio di maggioranza. Pare questo l'accordo. Però Maurizio, c'è Renzi che non ha esultato molto. Già i giornali dicono perché Berlusconi è pronto a far saltare il Senato. E lui vuole tutto, no? È il pacchetto tutto compreso. Italicum, Senato. Certo, anche se questo obiettivamente comporta qualche problema, perché io devo vederli i senatori che voteranno per l'abolizione del Senato. Comunque ne parleremo. È un passo avanti molto importante, positivo secondo me, perché obiettivamente la soglia al 35 era un po' bassa. Leggo anche che i partiti che si presentano in coalizione, la soglia di sberlamento per loro scende dal 5 al 4,5%. Sì. Insomma, tutte cose plausibili. Sì. Stronzate, lo 0,50 hanno guadagnato. Stronzate, ma dai. Ma sì, dai, guardate, dal 5 al 4,5%. Noi siamo qua. Guarda che ci sono dei partiti che sono lì, 4,5. Ma partiti quelli sono. Dai, ma Alfano, per esempio, mi sa. Alfano è un partito quello. No, vabbè, Alfano scelta quello là che è nuovo centro, cioè proprio quello lì, nuovo centrodestra, come NCC, come mai una cosa, guarda, per dire. NCD, NCD. Ma quello è uguale come simbolo. Hai visto il simbolo della nuova Fiat? Ma che ti frega? Ma adesso c'è. Adesso cambi così, è impazzito. Sentite Brunetta sui numeri. Brunetta, ogni giorno io Brunetta, devo mandarlo, Brunetta. L'accordo, lo ripeto fino alla nausea, 5, 8, 12, 35 con ballottaggio eventuale, altrimenti si fa come il carciofo, prima si toglie la soglia del 35, la si porta al 38, poi si abbassa il 12, lo si porta al 10, poi si abbassa l'8, lo si porta al 7, poi si abbassa il 5, lo si porta al 4, poi si fanno le candidature multiple, sa cosa succede poi? Si torna al porcello. Eccolo lì, non lo capivo niente, io cercavo di prendere appunti. Ha detto 85 numeri. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Questo cioè, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorpo del più o meno suonava così, Maurizio, quello con i numeri e Benigni con le parole. Ma tu hai seguito i numeri, hai preso nota? No, francamente al terzo numero ho chiuso gli occhi e sono crollato. E ho detto speriamo che finisca presto. Allora io vi voglio fare questa domanda perché sinceramente... Sì. Mi interrogo da ieri, la vicenda di Chiodi. Oggi parla al Fatto Quotidiano la donna che ha dormito con Chiodi, dicendo l'adulterio non è ancora reato, mi risulta, o meglio non è più reato. Insomma, questa vicenda, intanto sputtanato, è stato ben sputtanato Chiodi, no? Quindi, Vincino, famiglia, tu avresti pubblicato questa notizia?

facendo prendere la mano. Comunque l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, un'intera pagina, Mauro Meazza, firmata da Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, sul trucco mancato di Berlusconi, l'ultimo trucco di Berlusconi, mostrarsi vecchio per sembrare nuovo, tutta un'esegesi del perché il volto rugoso apparso sul Sunday Times è l'indice di una strategia, parlare all'elettorato più anziano, apparire struccato, ma chi se ne frega, ma dai, una pagina sul Fatto, di qualcosa. Voglio dire che domani scade il termine per comunicare i beni ai soci. Dico, me la cavo così, non ho parole. Va bene, la carta costa, ma non se ne accorge. Potete rimettermi la canzone? Giornale radio, dai. Quattro mattino. Eccoci qui alle 8:19 minuti in punto, ben trovati da Alessandro Milan. Eccoci. Allora, che è successo ieri alla Camera? Al di là delle questioni, il decreto approvato, è successo che quando la Presidente della Camera Boldrini ha aperto le votazioni dichiarando di fatto chiusa, applicando la cosiddetta ghigliottina, cioè mettendo fine poi agli ostruzionismi per impedire che venisse approvato un decreto, ha dichiarato aperta la seduta per il voto e... Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 1942 di conversione del decreto legge in esame. Dichiaro aperta la votazione. È successo il pandemonio. In questo pandemonio è successo anche qualcosa che vogliamo approfondire con uno dei protagonisti, immagino suo malgrado, non avrebbe voluto trovarsi in una situazione del genere. Onorevole Stefano D'Ambruoso, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Lei di Scelta Civica, nonché uno dei questori della Camera. Insomma, ci sono queste immagini che la vedono nelle fasi concitate. Lei ha detto oggi in una serie di interviste, sicuramente ha contatto, il contatto non si può smentire, ma l'onorevole Lupo, Loredana Lupo del Movimento 5 Stelle, dice: ma proprio colpito e mi ha fatto perdere anche una lente, mi ha aggredito fisicamente, onorevole. Sì, guardi, innanzitutto non ero lì per mia volontà, ma perché appunto ho un incarico lì alla Camera, che è quello appunto di preservare la sicurezza della Presidente della Camera nel caso di manifestazioni violente. Se io non ho il piacere di dover commentare il mio coinvolgimento in vicende del genere, sono andato alla Camera per fare altro in generale nella vita, nel senso per partecipare, dare un contributo dal punto di vista del partito di mia appartenenza. Invece ci si ritrova a dover gestire una violenza inaudita, mai vista prima nelle aule della Camera, con appunto più di 100 persone scagliarsi contro i banchi della terza carica dello Stato, che è la Presidente Boldrini, e in questo con tutti i commessi che sono coordinati appunto dall'ufficio del questore a cui io appartengo, di cui sono il coordinatore, abbiamo cercato di bloccare tutti quelli che salivano con violenza. Quindi lei dice i violenti sono loro, lei dice, i violenti sono, no, i violenti. Guardi, era un contesto di assoluta violenza che è stata portata sicuramente né dai commessi né dai questori della Camera, questo me lo consenta di dire. Mi trovo in una situazione in cui devo gestire una vicenda di violenza quando c'erano state attività di senso politico da parte del Movimento 5 Stelle, che per più di un giorno hanno fatto filibustering giusto proprio per manifestare la loro contrarietà a quel tipo di problema. Però dice poi si è degenerato al momento. E poi violenza assoluta. Io vorrei che si venisse, lo dico a me stesso evidentemente, venisse sottolineata la violenza in sé generata da più di 100 persone. Le immagini sono chiare in quel senso. Però le immagini, onorevole, sono anche chiare, cioè questa lei come la definisce? A me sembra, cioè, una manata, lei ha dato una manata e questa, onorevole, è quasi caduta per terra, cioè effettivamente questo si vede nel... Guarda, se, proprio, se proprio dobbiamo commentare le immagini specifiche, c'è una persona che tentava di salire con violenza sugli scranni per raggiungere il più possibile la presidenza. Abbiamo cercato di evitare che tutte queste persone salissero, sì, e procedessero, non soltanto la deputata Lupo, ma anche altri deputati, maschi e donne, perché non c'era nessuna questione di genere. Questo ci tengo a sottolineare. Ah, è chiaro, lei lì nella concitazione non esistono uomini e donne, esistono soltanto un numero notevole di deputati maschi e donne che con violenza cercavano di superare lo sbarramento posto a tutela però, della terza camera. Effettivamente, guardi, l'onorevole Lupo è intervistata dalla stampa, che peraltro sente anche la sua versione, dice: io sono proprio una donna, cioè lui è alto due metri. Quanto è alto lei? È vero che è alto 2 metri quasi, D'Ambrosio? Non si sente più. Ah, abbiamo perso la linea. Onorevole D'Ambrosio, non ci sente? Vabbè, adesso proviamo a recuperarla. Insomma, nella concitazione l'onorevole Lupo, devo dire, del Movimento 5 Stelle, dice: io ho perso una lente, sono stata aggredita, mi ha colpito, io sono una donna. Lui è alto 2 metri e io sono una donna anche non altissima, e quindi insomma è rimasto colpito anche di questa disparità di genere. Anche se Stefano D'Ambrosio, con il quale stiamo parlando, proviamo a richiamarlo perché è caduta la linea, dice invece: nella concitazione della violenza non esistono, diciamo, uomini e donne in quel contesto in cui dovevo difendere la terza carica dello Stato, vale a dire uno dei ruoli del questore. E niente, la linea al momento non prende, vediamo un po' di provare a richiamarlo. Vogliamo sentire ancora l'audio, insomma, di quello che è successo. Boldrini ha parlato e poi è successo il putiferio. L'abbiamo recuperato? No. Allora, sentiamo l'audio di Laura Boldrini. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 1942 di conversione del decreto legge in esame. Dichiaro aperta la votazione. E vabbè, è successo un po' di tutto. Cartelli, poi risuonavano anche le note di Bella Ciao. Questa è una Bella Ciao, poi i deputati di Fratelli d'Italia che avrebbero lanciato monete di cioccolata. Non lo so, intanto l'onorevole D'Ambrosio forse si è scaricato il telefonino, insomma la segreteria telefonica adesso chiamato, stava spiegando l'attimo di concitazione, insomma quella frase a dire anche nella violenza, nell'assoluta violenza e aggressione, versione di D'Ambrosio del Movimento 5 Stelle, agli scranni del governo e della terza carica dello Stato, dice: in quel momento non ci sono uomini e donne, insomma mi sono sentito di difendere Laura Boldrini. Va bene, niente, è alla segreteria telefonica, se riusciamo lo recuperiamo fino alle 9, tanto siamo in onda, altrimenti pazienza, qualcosa ci ha detto di quello che è successo ieri. Andiamo in pubblicità e poi parliamo anche di un'altra vicenda, che è quella sempre legata comunque a quello che è successo ieri, vicende parlamentari, decreti approvati come quello di ieri, decreti che invece verranno o no approvati, che fine ha fatto quello che deve rimodulare e rivedere il finanziamento pubblico ai partiti. 24 mattino. Allora, noi dobbiamo parlare del finanziamento ai partiti, ma siccome abbiamo ripristinato la linea con l'onorevole Stefano D'Ambrosio, onorevole, vorrei concludere con lei. Sì, eccoci qua. Allora, mi dica tecnicamente lei come definisce il gesto che ha fatto nei confronti della Lupo: uno schiaffo, una manata, una spinta? Me lo dica lei. Ma io lo faccio perché ho piacere di parlare con lei, non mi appassiona evidentemente questo tipo di domanda, ma so che devo risponderle e mi dispiace trovarmi nella situazione di dover rispondere ad una cosa per la quale appunto non ritenevo di dovermi ritrovare. Quello che le dico è che in quel momento cercavo anche io insieme a tutti gli altri commessi di evitare che le persone salissero e superassero il banco con quelle modalità che sono state viste da tutti in trasmissione. Sì. Quindi non vedevo nessun tipo, non davo senso a nessun tipo di gestualità da parte mia, evitavo soltanto in qualunque modo che le persone potessero superare il banco. Quindi se era necessaria una spinta, era una spinta, se era necessaria, lei doveva impedire questa cosa in qualche modo, in tutti i modi. Questo è quello che, e quindi di questo ho, insomma, con lei sto parlando, per cui non ho problemi a riscontrare quello che si vede chiaramente dalle immagini, e che chiaramente in quei momenti di enorme concitazione con più di 50 persone che arrivavano da tutte le parti con quelle modalità violente che sono state viste, che aggredivano anche i commessi, che sono persone che hanno anche una certa età peraltro, sì, sì. E quindi tutto questo accadeva in quei momenti. Ma posso dire, onorevole, io la conosco, è un magistrato di lungo corso, posso dire che secondo me lei è anche molto, al di là dispiaciuto di parlarne, proprio è dispiaciuto del fatto che sia successo, cioè un po' pentito, forse tornando indietro e riacquisendo in quel momento un briciolo di lucidità non avrebbe utilizzato quei modi, ecco. Io la ringrazio anche per questa sollecitazione. Sicuramente sono dispiaciuto per tutto quello che è accaduto. Dico a me stesso e a tutti quelli che, insomma, hanno potuto vedere quelle immagini, bisogna trovarsi nelle situazioni per capire che tipo di concitazione e di che violenza si percepiva nella gestualità e nelle condotte di chi arrivava per cercare di raggiungere la presidente Boldrini. L'ultima cosa, ci sono due ultime domande. La prima è che l'onorevole Lupo oggi dice: potrei querelarlo, e lei che risponde? Che è giusto che lo faccia, perché io credo evidentemente negli accertamenti della giustizia, ed è giusto che si faccia. Se la giustizia in questo paese è importante da mille punti di vista, questo è uno di quelli in cui appunto è giusto che la Lupo, se lo dovesse ritenere, si rivolga alla magistratura. L'ultima domanda, esatto, però è questa: sono volate anche delle accuse molto forti, credo una deputata, Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, ha detto che qualcuno l'avrebbe sentita dire: non è mica la prima volta che picchio una donna. Ecco, su questo mi fa piacere che lei mi sollecita, visto che non era concordata questa domanda, perché trovo questo davvero espressione dell'atteggiamento davvero strategicamente violento di quel movimento. Non ho mai parlato con la deputata Sarti, ha scritto su un blog cose da me mai riferite in assoluto e mai pensate evidentemente, questo perché, ecco, e posso dire, già l'ho detto ieri, che la denuncerò e la querelerò per tutte queste false affermazioni a me attribuite. È pazzesco mettere in giro semi che generano altra violenza, perché solo questo è il fine di dichiarazioni false e pretestuose. Ma lei si immagina uno che va in giro nella Camera a dire: tanto io le ho menato altre donne? Ma siamo veramente al limite dell'adolescenziale rissosità. Va bene, staremo a vedere, certo non una bella pagina. Io la ringrazio intanto, tutta questa domanda non è concordata come tutte, visto che non concordo mai le domande, e la ringrazio per essere qui, visto che l'abbiamo chiamata oggi al volo alle 8 del mattino. Io voglio cambiare pagina, ma non tanto, perché insomma provvedimento che è stato approvato ieri, provvedimento che chissà se verrà approvato, è quello sul quale vogliamo fare una luce, tornare a riaccendere una luce, il provvedimento sul finanziamento ai partiti. Lo facciamo con due esponenti, la senatrice Isabella De Monte del PD, che saluto, buongiorno senatrice, buongiorno, eccoci qua, buongiorno, è relatrice lei di questo provvedimento in Commissione Affari Costituzionali, e il senatore Nicola Morra, che è vicepresidente della Commissione stessa e del Movimento 5 Stelle. Senatore Morra, eccoci. Buongiorno agli ascoltatori. Non posso non partire, però, essendo lei del Movimento 5 Stelle, D'Ambrosio lo abbiamo chiamato oggi alle 8, insomma in due tranche che è caduta la linea, abbiamo ricostruito la sua versione. Lei ovviamente sta al Senato e non alla Camera, forse avrà sentito Morra versioni diverse dai suoi colleghi deputati. Non so che dice. D'Ambrosio dice: dovevo fermare in qualsiasi modo un'aggressione violenta alla presidenza della Camera. No, io contesto la posizione di D'Ambrosio in maniera secca. Io dico che tutti quanti abbiamo occhi per vedere. Basta semplicemente far scorrere le immagini, e per fortuna ci sono, e si capisce tutto. Io sono anche dell'avviso che si debba conservare sempre lucidità e autocontrollo. Ieri mi dispiace, ma il collega D'Ambrosio, che non conosco, evidentemente non era sufficientemente lucido per gestire. Ma lui dice che la situazione non era di lucidità, era una situazione di violenza, e quindi... Benissimo. Situazione di violenza, ecco, per chi ascolta, violenza è per caso sedersi sui banchi del governo perché simbolicamente si vuol far capire che è stata effettuata un'azione che mai era stata effettuata in precedenza, il riferimento alla ghigliottina. Se questa è violenza, ecco, occupare i banchi del governo, mi dica un pochino lei, chiudiamo il Parlamento e ce ne andiamo tutti a casa. Adesso non si potrà più impedire che un decreto legge non venga convertito. Noi abbiamo esattamente sfruttato immagini di manovra che ci concedono i regolamenti della Camera e a quelli ci siamo attenuti. Dopodiché la Presidenza della Camera ha deciso di ricorrere per la prima volta nella storia della Repubblica ad uno strumento mai utilizzato prima, benissimo, per protesta simbolicamente si voleva salire sui banchi del governo. Se questa è violenza, allora mi dica un pochino. No, ma è chiaro, diciamo sicuramente non una bella pagina, ecco. Poi io mi astengo dal giudizio, ci sono le immagini, esatto, ci sono le versioni, esatto. Diciamo non una bella pagina delle istituzioni, quando si vedono già le istituzioni sono molto screditate agli occhi di molti cittadini, quello che è successo ieri, al di là del merito dei decreti, non stiamo entrando nel merito. Posso aggiungere una considerazione? Io sono dell'avviso che tutto questo sia figlio della crisi del sistema. Noi come Parlamento non riusciamo più a lavorare su iniziative legislative e parlamentari, siamo costretti solo e soltanto a convertire decreti legge che ci impone. No, ma e aggiungo io, su questo avete perfettamente ragione, mettere l'IMU e banchi e la vicenda banche, cioè due materie diverse, nello stesso decreto è un qualcosa di sbagliato dal punto di vista istituzionale, ma è un po' l'impazzimento come quando si fa il milleproroghe e si mette sul primo treno che capita. Però è la prima volta. No, no, ma infatti. Sono omnibus, infatti. Si lega la marmellata con il cioccolato e con la farina di castagna, ma questo appunto c'è un'eterogeneità assoluta. Ma questo certo. Però cioè, alla fine pagano i cittadini. Noi abbiamo chiesto ancora nella giornata di ieri di discernere e quindi di separare la parte relativa all'abolizione della seconda rata dell'IMU dalla parte relativa alla cosiddetta privatizzazione. E questo non è stato fatto. A fronte di questa richiesta abbiamo ottenuto ascolto, ci si dica noi che margini di manovra abbiamo in Parlamento. Allora, ma ieri questo abbiamo utilizzato le tecniche di filibustering concesse dal regolamento. E loro hanno utilizzato, diciamo, la Presidenza della Camera, la tecnica della ghigliottina mai usata, ma c'è nel regolamento. Benissimo, comunque a questo punto chiudiamo il, già che non era mai stata utilizzata prima, chiudiamo il Parlamento e poi il governo subentra al legislativo. Parliamo di questa vicenda invece dei finanziamenti ai partiti. Senatrice De Monte, ieri tra l'altro c'era questa cifra tirata fuori da Open Police, dal 74 a oggi 2,7 miliardi di euro, questa è la cifra erogata ai partiti a fronte di spese minori per 15 elezioni e votazioni di questi anni, il che vuol dire che i partiti hanno un tesoretto di 1,9 miliardi di euro. Queste le cifre di Open Police. Al di là delle cifre, il timore espresso anche ieri dal Sole 24 Ore è che questo decreto di conversione si impantani. Lei che è relatrice è ottimista che invece venga approvato? A parte in commissione stiamo appena adesso esprimendo i pareri e siamo arrivati all'articolo 4, quindi diciamo non abbiamo ancora raggiunto i nodi chiave che riguardano questo decreto. Io penso che il dibattito riguarderà proprio il contenuto principale, che è quello dato dalle contribuzioni volontarie e dal 2 per 1000, perché è lì che si gioca un po' l'impianto di tutta la novità introdotta riguardo all'abolizione dei finanziamenti ai partiti, di conseguenza il modo comunque per sostenere un'attività dei partiti stessi. Al momento io intravedo comunque delle difficoltà, ecco, perché su temi così importanti, comunque anche che cambiano nettamente rispetto al passato, è ovvio che ci siano anche delle posizioni diverse di resistenza. Ricordiamo che ci sono 180 emendamenti al provvedimento che vuole abolire progressivamente, per arrivare al 2017, a una nuova forma di finanziamento. Lei vede delle difficoltà, ma perché ci sono delle resistenze anche all'interno del PD, glielo chiedo? Ma direi che queste differenze sono minimali. Penso che nell'ambito del PD questi problemi non sussistano, però ecco, altri aspetti magari possono riguardare la trasparenza o comunque i bilanci, perché per avere accesso a queste agevolazioni è necessario comunque rispettare determinate formalità, avere un determinato statuto con certi contenuti, renderlo pubblico attraverso proprio i siti del Parlamento, avere determinate anche procedure in certo senso fisse anche quanto alla vita interna del partito, per cui su questo immagino si discuterà, anche perché sappiamo che in realtà proprio dei partiti sono molto diversi. Si discuterà, no? Mi dice la data entro quale va convertito questo decreto, perché sennò decade anche questo. Noi abbiamo il 28 febbraio adesso, credo che andremo mercoledì in aula, il tempo comunque c'è un mese, il tempo c'è. Nicola Borra, voi su questo avete una posizione molto chiara, cioè il Movimento 5 Stelle per cancellare tutti i rimborsi ai partiti, il finanziamento subito, vede resistenze? Io ricordo a me stesso che per esempio quando si è avviata la discussione è stato il senatore Sposetti, tesoriere in passato dei DS, che è venuto a fare le pulce al decreto stesso, avanzando delle tesi che in qualche modo suscitavano il nostro interesse e anche la nostra simpatia, però è proprio l'idea in sé che comunque si debba continuare a finanziare un'attività che invece deve essere restituita alla sua dignità e alla sua semplicità. Noi dobbiamo tornare a far politica per passione, se c'è passione basta il contributo anche minimo di tantissimi per far cose importanti. Noi Movimento 5 Stelle l'abbiamo dimostrato, io non capisco perché si debba continuare a erogare finanziamenti che in passato sono stati dati in misura assolutamente illogica e pertanto vantaggiosa per alcuni. Io qua ho il dossier appunto del Senato e leggo che per esempio rispetto alle spese effettivamente riconosciute dai partiti, i contributi che poi lo Stato ha dato sono stati finanche, questo è riferimento alle elezioni del 2001, superiori in misura del 959%. Ora mi dica un pochino lei se non conviene a questo punto, con questa logica, investire piuttosto che in azioni Fiat, visto che magari dovremmo attenzionare tanti altri problemi, in partiti, già che lo Stato li tratta in questo modo. Ma questo è un po' un mistero, anche perché i partiti quando si sentono, spesso sentiamo anche i tesorieri, dicono il tesoretto non ci sono soldi. Bianconi, che è tesoriere di Forza Italia, dice sempre tesoretto io non ho una lira, dobbiamo pagare, dobbiamo anche licenziare i dipendenti. Non si capisce questo tesoretto citato da Open Policy dove sia finito, insomma questo è anche... appunto poverini, non lo so, promuoviamo una colletta, credete? No, vabbè, questo, al di là delle ironie, questo assolutamente no. 24 mattino. Allora, senatrice De Monte, io le ho chiesto della questione del PD perché c'è tra i vari emendamenti uno, appunto, Sposetti, Gotor, due esponenti del Partito Democratico, che è un po' l'emendamento che vuole riscrivere dalle fondamenta la questione dei contributi economici. Lei personalmente di che linea fa parte all'interno del PD? Nel senso che c'è un dibattito, però sappiamo che Renzi è molto chiaro a dire va fatto così, va tolto il finanziamento, va appoggiato questo decreto e ci sono delle resistenze. Allora, da parte mia esiste questa teoria, dobbiamo andare verso l'abolizione del finanziamento ai partiti, però è chiaro che occorre in qualche modo comunque una gradualità, perché i partiti comunque che sono strutturati hanno la necessità di rimodulare la propria attività in questi anni, infatti l'abolizione definitiva avviene nell'arco di un triennio. È necessario però comunque avere un sostegno in qualche modo, perché ricordo che il finanziamento ai partiti è nato proprio per evitare comunque un controllo privato sull'attività politica. Noi ci avvieremo verso un sistema misto che però punta al merito, perché la differenza rispetto all'attuale sistema e quello che verrà in futuro è proprio quello di dire il cittadino scelga, perché al momento la scelta avviene nel momento della votazione, ma può essere che comunque nella fase successiva il singolo cittadino non sia più d'accordo, ecco, di finanziare l'attività come invece avviene adesso in maniera automatica in base ai voti, diciamo, ai voti e agli aventi diritto al voto. Cioè lei è a favore per esempio di questa modalità del 2 per 1000 o comunque... Sì, diciamo diciamo che è una forma che si è ritenuta praticabile, perché comunque dobbiamo sempre pensare che tra la teoria e la pratica comunque c'è una certa differenza. Siamo d'accordo sull'abolizione ai partiti, però dobbiamo anche trovare il modo per sostenere un'attività. Io non condivido il fatto che si possa completamente azzerare. Il Movimento 5 Stelle ha un suo sistema, mentre altri partiti sono più basati su un radicamento anche territoriale. Parlo del Partito Democratico, dove ci sono i circoli, i forum tematici, dove c'è una forte esigenza di partecipazione proprio in senso collegiale. Sì, da questo punto di vista effettivamente, senatore Morra, voi dite si può fare come il Movimento 5 Stelle, però voi vi basate molto sulla rete, sui meetup, eccetera. Ma se i partiti ognuno si organizza come vuole. Voi dicevo, noi non siamo un movimento, non siamo un partito, ma se un partito si organizza storicamente con una presenza sul territorio, con sedi e quindi anche dipendenti, eccetera, cioè che facciamo? Voi vi ponete la questione delle persone che andrebbero evidentemente licenziate, nel senso che perderebbero il posto di lavoro? Guardi, noi contestiamo proprio alla radice questo presupposto, per cui siamo su posizioni decisamente contrarie. Non si può e non si deve far della politica una professione. Sappiamo anche che nel provvedimento che si va a discutere, per esempio, sono previste misure a favore dei lavoratori che potrebbero perdere il lavoro, e su questo abbiamo assunto un atteggiamento tutto sommato di accettazione della proposta, per cui vada bene anche che lo Stato si interessi di questi lavoratori. Però mi lasci dire, insomma, io vorrei una politica molto più al servizio dei cittadini e molto meno al servizio dei politici, e qua sappiamo tutti che sono anni e anni che facciamo parole, sappiamo che sono anni e anni che si dice gradualmente faremo e così via, ma qua alla fine cambia ben poco, anche con la storia, per esempio, prima diceva la collega De Monte, no? Lei diceva la collega De Monte si vuole rifiutare l'idea del partito padronale, benissimo, allora perché non facciamo passare il principio per cui le cosiddette donazioni liberali arrivino ad un tetto molto molto più basso rispetto a quello oggi proposto dalla norma, perché ad oggi si possono conferire fino a 300.000 euro. Adesso mi dica lei quale contribuente italiano può tranquillamente garantire. Non 300. Sono pochi, non sono ma io pochi. Credo che questo risponda ad una concezione padronale forse del partito. No, allora noi diciamo poco da tanti, il Partito Democratico di recente ha svolto le sue primarie e ha chiesto a tutti i partecipanti un contributo di 2 euro, se non ricordo male. Benissimo, perché non si torna ad usare questa filosofia? Quel sistema lì, 2 euro, chi le vuole le dà. Fatemi sentire Paolo da Palermo, ci chiama. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io penso che il parere del popolo italiano, penso che abbia valore. Il popolo italiano si è già espresso e ha detto che il finanziamento pubblico ai partiti non lo vuole, bisogna soltanto abolirlo. Poi per quanto riguarda quello che dice l'onorevole, che i partiti strutturati bisogna che insomma abbiano un po' di tempo per potersi riorganizzare, ma l'eroe Morra, perché per me è un eroe, ha detto che c'è un surplus del 900%, ma di che cosa si devono riorganizzare? Quindi lei dice usino quei soldi, grazie. Poi una cosa, perdonatemi, sono ancora in linea? Sì, certo, dica però, velocemente. Ma una cosa, così, proprio un'osservazione al di là di ogni cosa. L'intervento di D'Ambrosio di ieri, io non ci ho notato una casualità o un gesto dettato, ma ci ho notato proprio della malignità cattiva. Malignità cattiva, va bene, questo è il suo parere, grazie Paolo. Allora io per concludere, ho 3 minuti, vorrei anche fare una domanda, un paio di domande sulla questione dell'impeachment, ne approfitto Nicola Morra, visto che lei Movimento 5 Stelle. Ma adesso, intanto ecco, partiamo da 2 giorni fa, lei è una persona di buon senso, quando l'abbiamo chiamata sempre, no, sappiamo che il Movimento 5 Stelle spesso viene anche criticato per l'uso di toni un po' aspri, mi dica sinceramente se condivide l'utilizzo della parola boia espressa dal collega Sorial. Allora, così sgombriamo il campo da equivoci, la parola non è stata la più felice, la più appropriata, la più adeguata, e su questo penso che non si debba più sprecar fiato, certamente però il concetto rimane, cioè noi ci troviamo troviamo un Presidente della Repubblica che a nostro avviso naturalmente non è effettivamente super partes, se non è garante dei valori costituzionali. Pertanto noi adesso procederemo con una richiesta di impeachment, poi sarà chi di dovere a dover valutare il tutto, e penso che sia nel nostro diritto sottoporre ad esame chi evidentemente negli ultimi anni ha deciso di sottrarsi. Ma qual è il motivo essenziale per cui non risponderebbe, non difenderebbe i valori costituzionali? Guardi, ce ne sono tanti, io faccio semplicemente una riflessione da cittadino che tenta di tutti i giorni sottoporsi al controllo della legge. Se io non ho problemi di alcun tipo, io faccio ascoltare tutte le mie telefonate, lei sa a quali telefonate facciamo riferimento, sì, stato, a chi mafia, che sia, perché non ho, esatto, non ho scheletri nell'armadio. Se evidentemente mi sottraggo a dei doveri di pubblicità che sono propri dell'uomo pubblico, forse qualche scheletro nell'armadio ci potrebbe anche essere. Ma questo è un metodo anche... un po', come dire, c'è anche la tutela dell'istituzione Presidenza della Repubblica. Mi scusi, cioè far passare l'idea che se uno non fa sentire delle telefonate è già... Ma non sarebbe stato ancor più tutelante il mettere a disposizione queste registrazioni per dimostrare che non c'era alcun alone di dubbio sull'istituzione Quirinale? Bastava questo e tutti quanti avremmo recuperato fiducia in un'istituzione che per tutti quanti noi deve tornare ad essere proprio fulgida e motivo di fierezza per tutti gli italiani. Vogliamo ricordare di quando per esempio sono stati convocati i capigruppo della maggioranza nonché la Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato al Quirinale, avendo noi scoperto casualmente, grazie alle agenzie di stampa, tutto ciò, il Quirinale si è ritenuto in dovere di promuovere incontri anche con il resto delle forze parlamentari. In ogni caso sono motivi che vi spingono a dire non difende le prerogative di terzietà, diciamo, del suo ruolo istituzionale, quindi procedete anche riformare la Costituzione bypassando, cioè aggirando i vincoli imposti dal 138 è un altro motivo di grande perplessità. Vedremo, non abbiamo la verità in tasca, ma è chiaro, vedremo come andrà a finire questa cosa. Mi devo fermare, ringrazio il senatore Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, la senatrice del PD Isabella De Monte. Alla prossima, noi siamo sempre qui, io sono sul profilo Twitter Alino Milan e ci troviamo domani alle 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.